Tra le righe. E rieccoci al Salone Internazionale del Libro di Torino, giornata di sabato 14 maggio. Sta iniziando la presentazione del libro di Susanna Tamaro, Per sempre. Sta parlando attualmente il moderatore. Fra pochi istanti ascolteremo le parole di Susanna Tamaro. Tra le righe. Buongiorno a tutti. Buongiorno Susanna, grazie. Paola Mastrocola introduce Susanna Tamaro. Per me è un'emozione grandissima, perché per me Susanna è stata una grandissima lettura da sempre, fin dal suo primissimo libro. Io ricordo che quando ho letto Per voce sola ebbi una specie di shock, perché la narrativa italiana andava da tutta un'altra parte, quella era una voce sola. Mi colpì moltissimo, fui felice tra l'altro che uno dei miei altri grandi miti, cioè Fellini, mi avesse dato il mio stesso giudizio, cioè di un capolavoro, e di lì in poi tutti i libri di Susanna. Sono 17 anni da Va dove ti porta il cuore, una vita. Vorrei ringraziare Susanna essenzialmente per due motivi, perché è una delle poche scrittrici oggi che non appare, e quindi a maggior ragione la ringrazio di essere qui. Io so che va molto poco in giro, poi se vuoi ne parliamo. È molto ferma, e le piace molto stare, e questo è uno dei temi che, posso dire, a noi piace moltissimo. La ringrazio per un'altra ragione che è legata a questo libro in particolare, ma non solo. La ringrazio perché ci fa piangere. Allora, sul pianto vorrei fare una piccola... Dunque, io ho letto questo libro molto in due giorni, perché non si riesce a mollare. La parte finale, l'ultima parte, anzi più della metà, l'ho letta alla Biblioteca Nazionale, dove io praticamente vivo, ma questo è un altro discorso. Mi piace molto stare in biblioteca. Mi è capitato, gliel'ho raccontato, di leggere e... mi stava venendo un pianto, ma sapete quei pianti che non clamorosi, quei pianti che non si vedono quasi ma che sono continui, e quindi avevo il problema di essere vista, anche perché era un luogo pubblico. Quindi la prima cosa che vorrei consigliarvi è di leggere questo libro non in luoghi pubblici, perché ecco un po' può dare qualche imbarazzo. Sul leggere e piangere, mi piacerebbe anche ricordarvi che noi apparteniamo a una generazione. Io sono del 56, Susanna del 57, siamo proprio quasi coetanee, cresciuta a colpi di libri che facevano piangere. Noi abbiamo pianto sempre leggendo, nell'infanzia e nell'adolescenza. Erano libri tipo Senza famiglia, Il piccolo Lord, I ragazzi della via Pal, il film L'incompreso, non so, cioè una valle di lacrime. E noi amiamo molto piangere leggendo. È bellissimo. Io sono sempre grata quando un libro mi fa piangere, perché vuol dire che ha toccato un'emozione profonda e ti puoi abbandonare. Magari sei a letto, ho pianto tantissimo sul finale del Gattopardo, no? Mi è proprio un pianto, mi sono lasciata andare, avevo pianto tipo 2 ore a letto da sola di felicità, no? Io ritengo che piangere è un'ottima, una bellissima cosa per un libro. Tra le righe. Intanto è un romanzo che ha sotto un'idea di narrativa molto diversa da quella che c'è, cioè una narrativa che non narra. Per Susanna posso dire, il romanzo non è una forma di narrazione, e questo è clamoroso, perché non facciamo altro che dire che il romanzo è trama. Abbiamo scuole di scrittura, abbiamo scuole di narrazione che vanno benissimo, però vogliamo dire qui con Susanna oggi che c'è un romanzo che è anche altro, ed è, se posso dire, una forma di meditazione, che non è narrazione, è meditazione. Cioè, questo libro non racconta, racconta e non racconta, o meglio, è la storia, tanto la storia è data fin dall'inizio, quindi non rivelo nulla, è semplicemente la storia di un uomo che perde tutto, cioè perde la moglie incinta e il figlioletto di 3 anni, in un incidente stradale. Fine. Questo è dato all'inizio, voi lo vedete tra l'altro alla fine del suo percorso, dopo 15 anni dall'evento. Il libro inizia con lui che ha già trovato una, se vogliamo, soluzione, ma anche qua non so se sarà una soluzione, ce ne parlerà Susanna. Dopodiché il libro consiste nella meditazione a ritroso della propria vita a partire da quel lutto incredibile e da tutta la strada che un uomo percorre di fronte al baratro che gli si scava davanti. La metafora che Susanna usa è la metafora della scure. Questa morte, questo incidente, questo è molto più che una morte, è proprio la devastazione di una vita. È una scura che taglia la vita in due, anzi la taglia, per molti potrebbe essere definitivo, la taglia e basta, di lì non si rinasce. Di lì invece Susanna racconta la storia di un perdersi per ritrovarsi. C'è la favola di Pollicino molto al centro di questo libro, ma non solo, una favola che tu ami probabilmente molto. Ecco, e c'è un'altra cosa tipica dei libri di Susanna, questo colloquio confidenziale con i morti. Il libro è in prima persona, è lui che racconta, il sopravvissuto diciamo, ma racconta a un tu che è la moglie. Quindi di nuovo vi ricordate Là dove ti porta il cuore, che era la lettera diario della nonna alla nipote lontana. Ecco, è come se, e qui mi fermo, la morte, la lontananza fosse il centro che scatena la meditazione, che illumina la vita, forse la salva perché ci regala la verità. Cioè di lì noi partiamo per capire ciò che non abbiamo mai capito. I personaggi di Susanna hanno questo, non hanno mai capito ancora, cioè Susanna ci dice con i suoi libri che capire il senso della vita e delle cose che ci accadono è una cosa lunghissima. Noi passiamo la maggior parte della vita a non capire niente, abbiamo bisogno di squarci, anche di colpi di scure che ci illuminano e retrospettivamente ci fanno recuperare un senso. Ecco perché il flashback, narrativamente parlando, è così importante nella tua narrativa. Io però adesso mi fermo, vorrei che parlasse lei. La prima domanda, proprio per darle là, è: ma come ti è nato un libro così? Ma tutti i miei libri nascono in modo molto particolare, nel senso che io non appartengo a quella categoria di scrittori che si alza tutte le mattine e scrive 3-4 ore. Io scrivo molto raramente, perché amo anche la vita, amo fare tante altre cose, amo molto vivere. Capisco che ho bisogno di scrivere quando la mia serenità abituale, che sono una persona serena e di buon umore, comincia a essere annuvolata, quando sento una profonda inquietudine, allora capisco che è il momento di tirare le energie dentro, ritirarsi e cominciare a riflettere. Questo libro ha avuto una genesi lunghissima e anche disperata, perché una volta che ho deciso di mettermi a scrivere, che sentivo di avere qualcosa da dire, non riuscivo, perché non è così semplice. Intravedevo quello di cui volevo parlare, ma non riuscivo a trovare la porta per entrare, trovarsi in un palazzo con tante porte e non sapere qual è quella giusta. Dunque ne ho aperte tante volte delle porte che non portavano da nessuna parte. A quel punto, come forse apri anche tu, siccome scrivi anche tu, ti viene una certa disperazione e sfiducia totale nelle tue capacità e dici: non ce la farò mai. E questo è un tipico atteggiamento creativo. Quando tu getti le armi, quando tu dici: è troppo grande per me, è troppo difficile, improvvisamente qualcosa si sblocca, vuol dire che hai toccato il fondo della sofferenza, qualcosa si sblocca e i personaggi ti vengono incontro sorridendo e tu finalmente puoi prenderli per mano e raccontare la storia. Dunque io volevo parlare della vita spirituale, volevo parlare del senso profondo della vita, volevo parlare del mistero della morte, del mistero della finitezza, volevo parlare anche dell'intensità della vita. Questi erano, diciamo, i caposaldi teorici di cui volevo parlare. La storia poi è venuta, quella che tu hai detto, ma volevo fare appunto una lunga meditazione anche per questi tempi, perché sono tempi così complessi, così anche malati, che forse abbiamo bisogno di tornare a riflettere sulle cose fondamentali e a farlo in maniera semplice, in maniera concreta. Io dico sempre, io sono una devota della realtà, nel senso che io amo, sono molto razionale, non sono così adatta a fumi misticheggianti, amo la spiritualità della materia, di quello che succede ogni giorno, delle cose che fai, dell'ordine, della cura. Dunque volevo un libro anche che parlasse di quello, di tutto ciò che è profondamente spirituale, che sta però nascosto nella realtà di tutti i giorni che noi incontriamo banalmente. Dunque questo era un po' il senso. Ecco, intanto la morte è il centro del libro e questo è il grande coraggio di questo libro. Cioè Susanna ha preso come tema la morte, il dolore più grande che noi possiamo avere nella vita, e la morte è oggi una delle grandi nostre rimozioni. Noi rimuoviamo il pensiero della morte in tanti modi, no? La esorcizziamo. Io ho spesso riflettuto sul fatto che, ad esempio, educando i nostri figli, noi abbiamo in qualche modo scelto, non so se dico giusto, ma mi sembra, di tenerli molto lontani dalla morte. Noi venivamo portati, ad esempio, a salutare i morti, ce li facevano baciare, andavamo ai funerali, anche piccolissimi. A me sembra di vedere che noi teniamo fuori i nostri ragazzi da questo. Allora, nel libro di Susanna c'è quest'idea che è molto classica, proprio classica, e cioè che la morte è nella nostra vita, è la nostra vita, fa parte della nostra vita, anzi se noi amiamo la vita è proprio perché c'è la morte. E in questo è molto oraziano questo libro, cioè è veramente l'essenza del carpe diem, che non è ovviamente il darsi ai piaceri della vita, ma è il sapere che ogni momento, anche questo in cui siamo qua così raccolti per il libro di Susanna, potrebbe essere l'ultimo. Ah, certo. Sì, ma lo dobbiamo pensare, lo dobbiamo pensare in modo molto naturale, ma il momento dopo pensiamo, ci prendiamo una brioche al bar, cioè, che poi tra l'altro è proprio lo stile narrativo di Susanna. Se volete poi vi faccio un esempio, lei ci dice queste cose tremende, molto meditative e filosofiche, la riga dopo ci parla delle pecore, no? In questo libro ci sono le pecore, ci sono tantissimi animali, della cura delle pecore, ecco, no? Molto tranquillamente. Allora, questa cosa della morte nella nostra vita, cosa dici? È utile che noi invece ripensiamo in qualche modo a questo, che non esorcizziamo? Assolutamente, io credo che una grande fonte di disperazione e smarrimento attuale, soprattutto delle persone giovani, dei bambini, dipende da questo fatto che appunto si è sorvolato sui fondamenti, pensando che non fossero necessari. Io racconto sempre un fatto che mi è accaduto qualche anno fa, di un bambino che avevo ospite a casa mia, era i giorni di Pasqua, bambino di 8 anni, bambino contemporaneo, dunque senza, non edotto su queste cose, e bambino esagitato anche, e non so come durante la cena ci siamo messi a parlare di inferno, paradiso, cos'è, lui ha tirato fuori questo argomento, allora ha cominciato a parlare inferno, paradiso, allora mi dice come si fa andare all'inferno, come si fa andare in paradiso, io insomma sobriamente ho detto c'è il bene, c'è il male, puoi scegliere di comportarti in un modo o nell'altro, la tua libertà e la tua vita andrà in un senso o nell'altro a seconda che tu ti comporti in un modo o nell'altro. E lui mi ascoltava con gli occhi sgranati. Poi gli ho letto un paragrafo dell'Apocalisse, perché i ragazzi adesso amano queste cose di mostre, di cose terrificanti che accadono, ed è rimasto, gli è caduta la mandibola, perché davanti all'Apocalisse tutti i suoi mostri, i gormiti eccetera, impallidivano. Dopodiché siamo andati in salotto e c'era alla televisione sottovoce la veglia pasquale in diretta dal Vaticano e da San Pietro, e lui, che è stato un bambino molto agitato, io ho chiesto, non so, volete una camomilla, così lui ha detto state zitte perché per me questo è un momento bellissimo, e si è addormentato. Semplicemente gli avevo detto che c'era il bene e che c'era il male, che la vita consta nel scegliere, perché siamo liberi anche di comportarci malissimo, scegliere tra il bene e il male. Allora credo che riportare il discorso sui fondamenti sia proprio fondamentale per la nostra salvezza umana e per il nostro futuro. Vorrei leggervi un pezzo da un'intervista di Susanna, vecchissima peraltro. Vecchissima, che anni erano? 90, no, qualcosa. Il librino è Conversazione con Susanna Tamaro, Il respiro quieto, editore Omicron. Non è neanche più reperibile quel libro, sì, è una rarità. 1900, non leggo, 80, 96. 96. Allora, la domanda è: nei tuoi libri la tragicità della morte è sempre molto rappresentata, ma al tempo stesso sembra che per te la morte non sia la fine. È molto utile per questo libro. Io ho sempre pensato alla morte. Devo dire che tutta la mia infanzia non è stata altro che una lunga riflessione sulla morte. C'era questo punto misterioso e oscuro e tutto intorno c'era la vita. Sentivo che lì, in quell'apparente contraddizione, doveva nascondersi il senso più profondo della nostra esistenza. C'è una poesia di Ungaretti che mi viene sempre in mente: la morte si sconta vivendo. Ecco, credo che questo sia molto importante. La morte si costruisce ogni giorno con le azioni della nostra vita. È qualcosa che può avvenire in qualsiasi momento e dobbiamo sempre essere pronti a vivere l'istante in tutta la sua definitiva pienezza. L'idea della morte viene spesso rimossa, è naturale, perché fa molta paura a tutti, ma rimuoverla vuol dire semplicemente impoverire la vita. Allora, ho letto questo pezzo intanto perché è molto bello e l'impoverimento della vita è questo reale, che volevamo dire, perché a mia volta, allora, i versi "la morte si sconta vivendo" sono i versi, proprio sono tre versi, e tra l'altro "la morte si sconta vivendo" ed è una delle poesie dell'Allegria, quindi una delle primissime di Ungaretti quando era soldato e vedeva la morte tutti i giorni. Allora, nella mia esistenza, bene, questi tre versi sono un punto centrale. Io sono circa 40 anni che cerco di capire che cosa significhino. Li ho fatti proprio in classe l'altro giorno con i miei allievi e a loro anche ho detto: vedete voi, io sono qua da 40 anni che penso al senso, vedete voi, vi lancio anche a voi questi versi, metteteci anche voi 40 anni. Adesso però lo chiedo a Susanna: ma secondo te che cosa vogliono dire? Ma vogliono dire che se noi non mettiamo la morte come pensiero cardine nella nostra vita, tutto il resto non prende senso, perché questo abisso sopra di cui tutti abbiamo terrore, perché anche io sono terrorizzata, è assolutamente umano e normale, però ci parla del mistero che c'è in noi, no? Perché noi non sappiamo perché nasciamo in una certa famiglia, perché nasciamo in un paese piuttosto in un altro, in una condizione, c'è un mistero nella nascita e c'è un mistero della morte che è diversa per tutti, diversa per come avviene, a che età avviene, e tuttavia lei ci dà il senso della brevità, dove vuol dire che in questo spazio noi dobbiamo capire qualcosa di queste due oscurità, se sono oscurità, che ci precedono e che ci seguono. E allora la vita è un continuo cammino di comprensione della morte che, come dicevi prima, vuol dire poi essere presenti a ogni istante, capire ogni istante, godere ogni istante. Io ogni mattina penso: può darsi che stasera non torno a casa perché vado in giro per Roma, mi investo una macchina ed è finita. Cioè, questo senso di precarietà, io l'ho sempre avuto, devo dire, deve nutrire le nostre giornate per darci una visione più profonda. E questo cosa vuol dire poi? Ad esempio, capire che gli affetti vanno vissuti nella loro profondità, nella loro totalità, che vanno evitati, come dice a un certo punto la protagonista, i dolori inutili. Quanti dolori inutili infliggiamo agli altri per motivi tutto sommato sciocchi, no? Dunque, è come dire, la vita si capisce vivendola, ma è una specie di sfogliazione di quello che è inutile, di quello che è sciocco, di quello che è zavorra, per andare all'essenzialità. Dunque, l'essenzialità è capire che l'unica cosa importante nella vita è amare, non c'è nient'altro. E solo l'amore ci permette di affacciarci su questo baratro con una certa serenità. Dico che morire senza aver amato è una delle cose più tristi che possa accadere a una persona. Tra le righe. Infatti il protagonista è di fronte al vuoto che Susanna nel libro chiama lo spazio cavo, e per dirlo meglio usa una immagine molto bella, usa l'immagine del carapace della testuggine, cioè il guscio della tartaruga quando lei se n'è andata. Quando ho letto questo mi è venuto in mente: io amo molto il mare e amo molto le conchiglie, vado sulla spiaggia e cerco sempre le conchiglie. Ecco, ma anche la conchiglia è il segno di un'assenza, il segno di una morte. Noi raccogliamo le conchiglie che sono la casa di un essere che non c'è più. Non ci avevo mai pensato. Questo libro però, che ha il coraggio di andare così in fondo nel nero delle nostre esistenze, è uno dei più bei libri sull'amore della vita, ovviamente. Voi ne uscirete felici in qualche modo, posso dire, è un libro che vi farà molto bene, è un libro che fa bene, perché anzi, chi legge questo libro fa un po' il percorso del protagonista, è portato a rivedere la sua vita. Io non so come sia possibile, è una specie di miracolo della sua scrittura. Uno legge, segue la storia, segue i pensieri del protagonista, ma sta andando sulla sua vita. Io ho rivisto la mia infanzia, la morte di mia madre, di mio padre, il futuro, mio figlio, quando morirò io, cioè è una roba. Però tutto ciò con grande leggerezza, con grandissima leggerezza, perché come diceva Susanna prima, è vero che ci sono questi momenti di grande intensità astratta, filosofica, ma è un libro molto concreto. Vi faccio un esempio. Una delle cose che fa il protagonista per in qualche modo sopravvivere a questo vuoto è di andare da una medium. E questo è un episodio molto bello. La medium è una povera donnina, no? Molto umile, in una casetta da niente. E il protagonista arriva, lei gli sta già parlando, e sentite qua, c'è un gatto, molto importante questo gatto, e poi c'è un lavandino che perde. In mezzo c'è una delle frasi filosofiche più importanti del libro. Posso leggerlo io? O vuoi leggerlo no, tu? Ci può. Mentre parlava la medium, un gattone striato dagli occhi color smeraldo le è saltato in grembo. Lo ha accarezzato, riprendendo il discorso. Tu adesso vedi questo gatto, Uriel, vedi il suo corpo, ma il suo corpo non è l'unica realtà. Accanto al pelo, ai baffi, alla coda, vive un'altra entità, ed è un'entità di luce. Mi sentivo, dice il protagonista, come una persona che andava alla deriva. Avevo paura di mollare gli ormeggi così, per riportarla sul mio terreno, ho chiesto. Esistono anche i topi di luce. Ecco, capite? Cioè, siamo in un momento di grandissima, non so, zen, filosofia orientale, filosofia classica, Seneca, non lo so, mi viene in mente. Il gatto che salta in mezzo, in grembo, filmicamente ve lo vedete, no, la scena, cioè, che, come dire, smitizza subito la medium, il gatto con gli occhi smeraldo, e l'altro che gli chiede: esistono anche i topi di luce? E la medium che risponde: i topi? Certo, i topi, le farfalle, i fili d'erba, ogni più piccola parte di materia contiene una scheggia di luce. Ciò che non vediamo, ciò che non capiamo, è il grande fiume d'oro che scorre accanto ai nostri giorni. Ecco, questo è bellissimo, cioè in realtà vi leggo quello che ho scritto accanto, perché poi io non so voi, ma per me leggere e scriverci sopra infatti non riesco a, tutto d'orecchie, tutte cose scritte, guai a leggere senza una matita, ma io non so voi, ma no. E io ho scritto: bello che sia la luce proprio ciò che non vediamo, no? Cioè, e mi ha fatto pensare, adesso butto lì una cosa un po' più colta. Allora, la parola fantasma, che è, come sapete, ciò che no, non vediamo, in realtà ha un'etimologia greca dal termine luce, è phaos, è la luce. Quindi è proprio ciò che non vediamo che ci illumina. È bella, è assolutamente. Cioè, io vivo da tantissimi anni in campagna e mi occupo di coltivare come protagonista, di coltivare le cose che si mangiano, cioè di coltivare i fiori, mi occupo degli animali, ho avuto tante pecore, ho avuto le capre, perché sono una persona che ama appunto la praticità delle cose, so fare anche il formaggio, tante altre cose, insomma, no? Però penso che questo vivere in campagna mi pone in una posizione privilegiata, perché chi vive in città naturalmente non ha tante occasioni per osservare che cos'è la natura e il mistero che è nascosto nella natura. Ma vivendo a lungo appunto con gli animali, con le piante, veramente io ho percepito che c'è un'altra dimensione che a noi sfugge, di cui in alcuni momenti di felicità possiamo intuire l'esistenza, ma che gli animali ad esempio già vivono, già vedono, loro sono già sospesi nell'eternità, gli animali, e probabilmente anche le piante, perché anche le piante hanno una straordinaria sensibilità che solo la nostra mentalità cartesiana, cioè tenuti lontani dal percepire, ma anche le piante sono degli universi di energia potentissima e luminosa. E allora sempre più spesso l'idea che, soprattutto in questo mondo che viviamo adesso così convulso, che ci porta così lontani dalla nostra natura, perché penso che uno dei delitti del tempo contemporaneo è quello che vuole strappare l'uomo dalla sua natura, ma noi siamo natura, l'evoluzione ci parla di noi come creature nate da una lunga, da un lungo cammino biologico. Dunque noi abbiamo dentro tutto, il sasso, il fiore, l'anfibio, il pesce, dunque è una parte costitutiva di noi a cui non possiamo rinunciare. E questa parte di natura, grazie, ci porta a essere affondati nella realtà, nella realtà vera che è fatta appunto della cura, dell'amore, appunto dell'accompagnare le persone alla morte, che è un'altra cosa importantissima. No? Credo che veramente questa cancellazione della morte, pensa solo nei cimiteri, no? Allora, io vivo in campagna, allora c'è un cimiterino, i miei genitori sono sepolti lì, ogni tanto vado e porto i fiori, pulisco, incontro altre persone, l'amica che gli è morta il marito, quella che gli è morto il figlio, si chiacchia, cioè una realtà che accompagna, no? Cosa che nelle città, per questioni anche molto pratiche, non si fa più, no? Cioè, non è più possibile. Questo è bellissimo, il cimitero come luogo sociale. Sì, un luogo sociale, certo, incontri, e poi fa mai portare, vedi che non c'è un fiore sulla tomba della tua amica, gli porti un fiore a quella, insomma, è un mondo dove ci si incontra e si sente che la vita continua, no? Infatti magari di notte al cimitero ti fanno, giocano a carte, fanno lo scherzo sempre con le altre persone, no? Perché comunque è una realtà ed è bello prendersi cura, insomma, foscolianamente delle tombe dei cari, insomma, no? È importante questa conseguenza della vita, no? Pensando che tutto è un grande respiro in cui anche noi finiremo, poi io sono abbastanza sicura che questa è una parte della vita, perché sento questo profluvio di bellezza, di cose meravigliose, di natura, non può essere fatto solo perché viviamo questi risicati 70-80 anni anche malamente, poi tutto questo trionfo non mi torna nei conti, insomma. Sì, questa è un'idea molto bella, cioè in fondo è l'idea che noi vediamo una minima parte, sì. Quella che vediamo, ma non vuol dire che il resto non esiste. Sì, vi avevo però promesso un lavandino e quindi continuo in questo passo, siamo sempre con la medium, il gatto, eccetera, i topi di luce, eccetera. Dunque l'ultima frase era: ciò che non vediamo, ciò che non capiamo, il grande fiume d'oro che scorre accanto ai nostri giorni. E il protagonista chiede alla medium: e i morti sono là? Uriel, il gatto, si è stiracchiato ed è sceso. I morti non esistono, ha risposto. Esiste soltanto una maniera diversa in cui essere vivi. Per questo che dicevo che il libro vi darà una grande gioia. Per questo. E poi continua. E qui vedete il modo in cui Susanna scrive. Vi ha appena detto una frase: i morti sono soltanto una maniera diversa in cui essere vivi, e poi vi dice: poi ha chiuso gli occhi e per un tempo che mi è parso interminabile è rimasta in silenzio. Il lavandino della cucina gocciolava e dalla strada giungeva attutito il rumoreggiare delle maschere. Quando li ha perché è carnevale, quando li ha riaperti il suo sguardo aveva un'intensità diversa. Allora, e questo, cioè non c'è più bisogno che lei ci racconti filosoficamente, l'ha detto, perché la vita continua nel senso che c'è il lavandino che sgocciola e ci sono le maschere del carnevale che fanno rumore. È un libro anche pieno di rumori, i rumori della vita, i rumori della città da cui Matteo, il protagonista, poi si staccherà per andare a abitare nei boschi. C'è il silenzio che si contrappone ai rumori, c'è una frase bellissima che è: abitare il silenzio. Non è facile, abitare il silenzio, noi abitiamo nel rumore, adesso stiamo cercando, infatti ogni volta che ci riuniamo per ascoltare un libro, una scrittrice, per fare una lezione in classe anche, noi in pratica chiudiamo fuori il rumore del mondo e facciamo silenzio, in questo silenzio ricreiamo il mondo, secondo me. Volevo... Grazie, signora. Volevo tornare alla natura, perché poi ogni cosa che Susanna dice ci porta al centro del libro di nuovo. Allora, Il protagonista fa questa scelta, ve la dico perché l'ha trovata alla prima pagina, quindi non è nella trama. Lui sceglie di isolarsi, di andare a vivere, non vi dico perché, tutto il percorso lo vedrete, molto ricco, non è vero che Susanna non racconta, racconta meditando. Allora, il protagonista è solo, ha scelto di vivere in una casa nei boschi, possiamo dire così, dove alleva le pecore, fa il formaggio, ci sono tanti animali, anche gli animali del bosco, no? Proprio. Ci sono anche uccellini che sono nominati col loro nome proprio, che io non ricordo perché non conosco, ma sono molto belli. Ecco, quindi io ho letto anche nelle recensioni, il libro di Susanna viene presentato così: un uomo che di fronte al dolore massimo della sua vita, alla perdita della famiglia, sceglie la natura. Io direi però, andiamo ancora un po' più a fondo, è vero, sceglie la natura, ma cosa vuol dire? Nel capitolo primo viene molto messo in evidenza. Questo signore nei boschi è una specie di eremita. La gente che abita lì lo va a trovare, o comunque, siccome la casa è un po' sulla strada, sui sentieri, capita che la gente a passeggio si ritrovi davanti come uno shock, un tale che ha scelto di vivere in un modo come non vive nessuno, no? E la reazione della gente è straordinaria, perché ognuno cerca di etichettare quest'uomo per in qualche modo ridimensionarlo, no? Allora gli chiedono: ma lei è un santo? E lui dice: no. Ma lei è un pastore? No. Ma lei fa il formaggio? Sì, se mi serve. È uno che vende il formaggio? No, non lo vendo. Cioè, allora è bellissimo, perché questo personaggio fin dalle prime pagine scombina tutti i nostri piani, no? I nostri schemi, non appartiene a nulla. Quindi io ho capito questo, dimmi se è vero, questa è la storia di un uomo, sì, che sceglie la natura, ma perché la natura ci libera dai ruoli, cioè dai ruoli e dalle definizioni. Cioè noi riusciamo, andando lì a vivere così, a non essere più nessuno, che è un altro tema che personalmente mi attrae molto. Cioè ci liberiamo, no? Da tutto. È così? Assolutamente così, perché io tanto sono ispirata, perché forse non lo sapete, ma ci sono ormai, soprattutto nella Italia centrale dove vivo io, parecchi eremiti che si sono ritirati proprio nella vita di assoluta solitudine, che hanno il problema che si è sparsa la voce che ci sono, e ci sono file, code di persone che vanno a trovarli. Dobbiamo mettere il cartello: l'eremita riceve dalle alle, perché abbiamo talmente bisogno di persone che stanno fuori, che vivono al silenzio, che ci parlino della vita, che questi poveri eremiti hanno, siamo detti, la vita infernale, perché hanno appunto un fiume di gente che sale la domenica alle montagne per parlargli. Questo è l'inciso che mi ha ispirato la cosa. Ma penso che appunto la natura ci libera, perché la natura ci parla appunto del mistero e ci parla di che cos'è la vita. La vita è cura, la vita è cura, la vita è il nido, perché se voi guardate ad esempio come gli uccelli fanno il nido, ogni uccello fa il nido in modo diverso, in modo straordinariamente diverso, con una sapienza assoluta, e ogni uccello fa il nido in modo che il suo piccolo sia accolto nel modo più accogliente possibile. Dunque la natura ci insegna la maternità, e la maternità è il senso della vita, perché il senso della vita è prendersi cura dell'altro. Cioè io mi salvo, io esisto senza quell'ingombrante, noiosissima cosa che sono me stesso, nel momento in cui mi apro e mi occupo dell'altro. La natura richiede costantemente cura. Se io ho le pecore devo occuparmi di loro, se io ho l'orto non ho un momento di pace, perché c'è bisogno della mia attenzione. Questo è il grande processo di liberazione, secondo me. Questo punto è molto molto importante, perché non dovete pensare alla scelta di una solitudine a sé stante, mistica. Non è un isolamento, è intanto è un lavoro, cioè quest'uomo lavora. Avere degli animali o avere un orto vuol dire lavorare. La terra è anche questo, no? Cioè non dobbiamo pensare a una contemplazione. Ecco. Neanche una visione ideologica della natura come qualcosa di perfetto. La natura ha in sé la domanda sul male, la natura è piena di morte, no? Dunque questo ci interroga anche la natura, ma bisogna riuscire a vedere al di là di questo il programma più grande della natura, no? E poi il tema della cura mi ha molto colpito personalmente, perché Io sono una che invece si distrae molto e tende a non curarsi delle cose. C'è un passo nelle prime pagine molto bello. Siccome quest'uomo ha preso un rudere per andare a abitare lì, quindi un rudere era uno sfascio di macerie, no? E ha dovuto ristrutturarlo. E allora lui racconta che, insomma, dice che ristrutturare una casa non è facile, è una ricostruzione, no? E soprattutto è una rimozione di macerie in qualche modo. E dice, prima questo luogo era pieno di macerie, di rovi e di vipere, quindi abbiamo un'idea di una natura lasciata a sé e abbiamo anche l'idea che se noi non entriamo nella natura il mondo si imbruttisce, si complica, si confonde, no? Si intrica. Allora l'uomo ha anche questo compito chiarificatore di pulizia e di ordine, di rifare l'ordine, no? Una natura senza di noi è caos, una natura con noi è cosmo, cioè ordine. Vi leggo un pezzo perché sgombrando con cautela le macerie mi sono reso conto che non appena l'uomo abbandona la sua casa, al suo posto subentra in breve ciò che punge, che ferisce, che uccide. Ecco, se noi abbandoniamo una casa, questa casa non vive da sola, si sgretola, va in rovina, no? Il rovo, l'ortica, la vipera. Per quale ragione le rovine non vengono invase da primule e da caprifogli? Perché invece delle vipere lì non nidificano i leprotti? Questo è molto bello. Cioè, se noi non ci siamo, se abbandoniamo le cose vengono invase dal male, non dal bene. Esattamente, questo è un punto fondamentale, ma è vero che se voi, io sono una grande naturalista, conosco molto bene la natura, se voi lasciate delle pietre con delle lamiere, con delle cose in campagna, troverete pieno di vipere, perché le vipere adorano le lamiere, adorano le pietre, troverete pieno di ortiche, perché le ortiche vanno dove sono le macerie, non troverete viole, troverete delle cose aggressive, delle cose pericolose. Dunque questa è una metafora che la natura ci offre, del fatto che se noi non ci prendiamo cura, non siamo, come si pensa ora, in uno stato di beatitudine, ma veniamo invasi dal male che è figlio della noncuranza. Se ti fermi o ti distrai, la natura avanza e conquista, divora ogni cosa. Fermarsi, distrarsi, vuol dire soccombere. Io quando ho letto questo mi sono ripromessa che mai più mi distrarrò. Toglierai le erbacce in giardino. Sì. Io a volte, te lo dico con grande dolore, mi dimentico di dare l'acqua alle piante. Orrore, orrore. In questo siamo diversi. Io toccherei ancora un ultimo tema e poi darei la parola, la voce a un attore che è qui per leggere un pezzo del libro con cui chiuderemo l'incontro, ma prima vorrei ancora dire, allora c'è in questo libro bellissimo e terribile, c'è un punto, anzi è tutto il libro, è sul tema in fondo del caso, del destino. Cioè l'incidente stradale ci porta lì, perché proprio in quel momento passavamo di lì, no? Perché proprio loro e non altri, perché in quel momento della mia vita, perché la mia vita, e soprattutto se la sventura che capita a un altro era il destino dell'altro o era il mio, o siamo uniti, insomma, il tema è questo, è enorme. C'è una pagina bellissima che è, io l'ho chiamata Il gioco del sé, che io non ve la leggo, è troppo bella, ve la lascio a voi. E il gioco del sé è, e se non passavo di lì? E se quel giorno non andavo lì? E se non mi chiamava quel signore per dirmi quella cosa? E se mi avesse chiamato un'ora? Insomma, è uno dei giochi forse più tragici. In questi giorni stavo facendo l'Eneide con i miei allievi. È un gioco che fa anche Enea. Un po' più a livello più macroscopico, perché è un destino che riguarda non solo sé ma l'intera sua città, Troia, no? E se noi non avessimo fatto entrare il cavallo di Troia nelle mura, e se noi avessimo dato ascolto alla Laocoonte, cioè Il gioco del sé, su questo si imperna la nostra vita. Non so che cosa pensi del caso, che cosa, e che valore ha un valore religioso, come entra il pensiero religioso nel caso? Sicuramente da quattro soldi. In Vado dove ti porta il cuore c'è una frase molto importante, la protagonista parlava, perché in tutti i miei libri si riflette sul caso, sul destino, su quale sia più opportuno. E la protagonista diceva: in ebraico la parola caso non esiste, dunque non esiste l'idea che ci sia la casualità in ebraico, che l'ebraico è la lingua biblica, la lingua della rivelazione, dunque il caso non è contemplato. Anch'io credo che il caso non riguardi le nostre vite, credo che il destino, non riesco a chiamare il destino provvidenza, perché il destino non arriva così. Il destino è terribile, il destino ci inquieta, ci fa paura, ma esiste, ha una sua, come dire, volontà. E come dice a un certo punto il protagonista, il destino è la strada che devi fare per incontrare te stesso. Io credo sia questo, ognuno ha un destino diverso, però è il destino che ognuno di noi, la strada dobbiamo fare per arrivare a dire: ecco, io sono questo. Perché noi nasciamo che non sappiamo chi siamo, lo capiamo vivendo, e il destino ci offre l'opportunità per capire chi siamo. Questa è la cosa più importante. Io anni fa ho avuto un incidente, sono stata investita da una macchina mentre andavo in bicicletta. E poco prima di partire con la bicicletta mi ero fermata a prendere la bicicletta, vicino alla bicicletta c'era il palo con tante chiocciole che stavano uscendo per cominciare la stagione riproduttiva. E allora mi ero fermata, essendo appassionata a guardare le chiocciole, poi altri bambini ho spiegato come si riproducevano le chiocciole, eccetera. Dopodiché sono partita con la bicicletta e mi ha investito una macchina. Mentre aspettavo l'ambulanza sull'asfalto, dicevo: se non mi fossi fermata a vedere le chiocciole, no? Probabilmente la macchina non avrebbe investito. Però poi dopo, quando sono guarita, ho detto: ma forse se non mi fossi fermata a vedere le chiocciole mi avrebbe investito un tiro e sarei morta. Dunque, meno male che ho visto le chiocciole. Il padre del protagonista, che è un personaggio altrettanto importante nel libro e che ha una sua storia e un suo dolore, perché non c'è solo il dolore di Matteo, voi incontrerete molti dolori, soprattutto alla fine del libro, vedrete che è come se il protagonista, per salvarsi, dovesse incontrare anche i dolori degli altri, giusto? Perché non siamo mai soli, non c'è solo il nostro dolore, c'è quello degli altri, e questo ci può aiutare. Allora, il padre direbbe una frase che è un po' un ritornello nel libro: c'è una ragione per ogni cosa. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.